TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Operazione bomba terminata in 2 ore a Trieste. L'ordigno è stato disinnescato e verrà fatto brillare in mare aperto. Un migliaio di residenti fatti sgomberare. 9 progetti imprenditoriali selezionati, al vincitore un assegno di 15.000 euro per sostenere l'avvio dell'attività. Oggi il percorso finale di imprese spericolate, il programma di formazione e accompagnamento delle aziende nelle zone montane e rurali promosso dalla Fondazione Pittini. I nuovi approcci personalizzati di cure per gli anziani nel congresso regionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria che si sta svolgendo a Trieste. Sigfrido Ranucci con Report fa approfondimento inchiesta, non si ferma in superficie ma va in profondità per offrire conoscenza, stimolo, anche una giusta provocazione, perciò paga questo prezzo. Lo ha detto ieri Don Luigi Ciotti commentando l'attentato al giornalista a margine di un incontro del Festival del Coraggio. Al via ad Aprilia Marittima la 38ª edizione di Nautilia, al Salone delle Imbarcazioni Usate, presenti oltre 300 imbarcazioni dai grandi yacht da oltre 15 metri alle barche di piccola taglia. Tutto esaurito al Teatro Verdi di Trieste per il ritorno del maestro Daniel Oren che ieri sera ha diretto il pianista goriziano Alexander Gadjev. Domani si disputa a Trieste la Corsa dei Due Castelli, prova che si corre sulla distanza dei 10.000 metri tra Miramare e Piazza Unità. Tra i protagonisti anche la regina dell'atletica italiana Nadia Battocletti. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura parliamo dell'operazione bomba perché è stato messo in sicurezza l'ordigno che era stato trovato tra il molo quinto e il molo sesto del porto di Trieste all'altezza di Passeggio Sant'Andrea. Iniziato alle 6.30 lo sgombero di un migliaio di residenti, chiusa al traffico le strade circostanti, l'operazione si conclusa poco prima delle 9. La bomba verrà fatta esplodere tra poco in mare aperto. Avviso alla popolazione, sono iniziate le operazioni di evacuazione. Megafoni in azione fin dalle 6.45 del mattino, poi gli operatori nei palazzi tappezzati di avvisi hanno cominciato a suonare casa per casa. Sgomberati in meno di un'ora i 468 metri di zona rossa creata attorno al luogo di ritrovamento dell'ordigno bellico, zona Campi Elisi. Alle 7.45, come previsto, c'era il deserto. La bomba americana è stata disinnescata dagli artificieri del 3° Reggimento Guastatori di Udine all'interno di una struttura metallica allestita sul luogo di ritrovamento, nei pressi del magazzino 57 del porto. Massimiliano Cafagna, colonnello. È stata costruita una struttura di contenimento atta a mitigare gli effetti sia di una possibile esplosione accidentale e sia per limitare l'impatto sulla popolazione. Questa struttura ci ha permesso di ridurre il raggio di sgombero da circa 800 metri ai 468 effettivi. 1.000 i residenti stimati per l'evacuazione, in realtà molti si erano organizzati dormendo fuori. L'informazione non è mancata, anche i nostri amministratori ci hanno mandato le comunicazioni, ci sono state da parte del comune, perciò le cose sono state dette ampiamente e con ampio anticipo. Dove andrà stamattina? Vado da mia figlia. Che abita in un'altra zona scoperta da questo problema? Certo. Sono passati prima col megafono, poi hanno suonato i campanelli, è una mattinata un po' così. Chi c'è qui dentro? Sono Pele e Mini, che sono svegliati presto stamattina. Meno di una decina di persone che invece hanno approfittato della piscina messa a disposizione dal comune come luogo d'attesa. Ci aspettavamo la ressa, infatti abbiamo preso un posto in prima fila vista mare e siamo contenti, ecco, ci aspettavamo di poter spingere di più. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la quarta volta la Fondazione Pietro Pittini mette a disposizione una dotazione economica a favore di un giovane progetto imprenditoriale per le aree interne, zone che soffrono più di altre il fenomeno dello spopolamento. Sentiamo l'intervista alla presidente della Fondazione, Marina Pittini. È un progetto che vuole rivitalizzare le aree interne, che sono le aree montane e piedemontane di tutto il nostro paese, e noi vogliamo portare i giovani a sviluppare progetti di economia generativa, che vuol dire economia a impatto, che abbia impatto, cioè sulla comunità, sul territorio e sull'ambiente. Siamo già alla quarta edizione, le prime edizioni erano dedicate ai giovani che volevano insediarsi in regione, sulle nostre montagne, per trovare una forma di lavoro e di vita. E poi ci siamo aperti a tutto il territorio nazionale. La spinta per noi è molto forte perché crediamo molto nell'imprenditorialità e crediamo molto nei giovani. Difficile scegliere il vincitore? Sì, è difficile perché sono tutte idee di giovani che sognano e quindi partono in modo molto destrutturato. Noi facciamo un percorso di accompagnamento, ma si potrebbero definire early stage, quindi proprio sono i semi di una iniziativa imprenditoriale che noi vogliamo spingere, e sono ragazzi che vanno diciamo accompagnati, e noi ci dedichiamo a questo, insomma. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il giovane Andrea Misson, 21enne di Paolaro, ultima vittima sul lavoro in Friuli Venezia Giulia, è stato commemorato oggi in occasione della 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall'ANMIL con il patrocinio della RAI, il comune di Udine e quello di Tolmezzo. Una cerimonia si è svolta questa mattina a Udine con la posa di una corona davanti al monumento dei caduti in via Crispi, un'altra si terrà a Tolmezzo alle 15 davanti al monumento ai caduti sul lavoro in via Divisione Giulia. In entrambe le manifestazioni, presente la delegazione ANMIL, interverrà il presidente regionale Fernando Della Ricca. Le mafie oggi sono più forti di 30 anni fa, quando Libera è nata. Lo ha dichiarato ieri Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e di Libera, parlando a margine di un incontro al Festival del Coraggio organizzato dal comune di Cervignano. Don Ciotti è intervenuto anche sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'informazione è una sorgente di democrazia, e che proteggere i giornalisti che cercano la verità, la vogliono documentare, approfondire, vuol dire tutelare loro, vuol dire tutelare la democrazia del nostro paese. Ranucci con Report fa una trasmissione di approfondimento, di inchiesta, non si ferma mai in superficie, ma cerca di andare sempre più in profondità, per portare un contributo di conoscenza, di stimolo, anche di giusta provocazione alle persone. Per il coraggio di tutto questo, che dovrebbe essere l'impegno di ogni giornalista, ecco, paga questo prezzo. Ecco, in questi giorni abbiamo ricordato proprio Giancarlo Siani, 40 anni fa, per aver avuto la schiena diritta, per essere cercatore di verità, per documentarlo in modo chiaro, forte, ha sacrificato la sua vita. Facciamo in modo che non possa capitare più. Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di anziani. In Friuli Venezia Giulia gli over 65 sono 328.000, pari al 27,5% della popolazione. Un quadro demografico che richiede nuovi approcci per affrontare l'invecchiamento, se ne sta discutendo nel congresso regionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria a Trieste, dove si parla tra l'altro di prevenzione e corretti stili di vita. Tra le novità, le palestre della salute. Sentiamo l'intervista alla professoressa Michela Zanetti, direttrice della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università di Trieste e della struttura complessa di geriatria di Asugi. L'azione sullo stile di vita è fondamentale, in quanto l'obiettivo è proprio quello di prevenire l'ospedalizzazione o gli accessi al sistema sanitario. Quindi rafforzare alcuni principi, per esempio favorire l'igiene del sonno, migliorare e ridurre il consumo di alcol, prevenire alcune situazioni come il delirium, ma soprattutto dal mio punto di vista favorire, come dire, l'attività fisica, soprattutto nelle persone che hanno problemi di tipo motorio oppure una fragilità. Sappiamo che ci sono delle iniziative nazionali previste all'interno del PNRR, come per esempio l'apertura delle palestre della salute, che dovrà realizzarsi nella nostra regione entro fine anno, quindi questa è un'iniziativa, diciamo, molto, molto importante, che è stata finanziata, ma anche per esempio quello di favorire una corretta alimentazione e nutrizione negli anziani attraverso per esempio l'educazione o attraverso lo screening della popolazione per quanto riguarda il rischio della malnutrizione. Che cosa sono le palestre della salute? Le palestre della salute sono delle strutture previste appunto all'interno del PNRR in cui le persone che presentano una patologia o le persone che necessitano di svolgere attività fisica, che sempre più è vista come un vero e proprio intervento, quindi la promozione e la prescrizione dell'attività fisica che deve essere per forza tarata sul tipo di patologia che una persona ha, sono appunto queste strutture per cui è prevista l'apertura, l'inizio dell'attività per favorire la mobilità e l'attività fisica appunto in tutte le persone, nelle persone anziane, anche nelle persone che hanno l'indicazione per fare un programma di attività fisica. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli effetti del piombo contenuto nelle cartucce da caccia comunemente usate nelle attività venatorie e la trasmissibilità delle patologie piombo correlate dagli animali all'uomo e all'ambiente. Sono questi i temi al centro delle due giornate di convegno internazionale organizzato a Gorizia dalla Regione e dall'Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia. Gli interventi hanno evidenziato che ogni anno in Europa muoiono 2.300.000 uccelli a causa dell'intossicazione causata dall'esposizione al piombo, che può insorgere non solo per il contatto diretto, ma anche attraverso il consumo di carni già contaminate. Gli studiosi hanno evidenziato che il piombo è stato eliminato da quasi tutti i settori produttivi, della benzina, ad esempio, alle vernici, ma permane invece nella caccia. Alcuni paesi europei, come la Danimarca, hanno sostituito i pallini delle cartucce prescrivendo l'acciaio al posto del piombo. Oggi i convegnisti hanno visitato la riserva di Cornino, che ospita l'unica colonia di grifoni del nord Italia. Nel pomeriggio saranno a Venzone per la mostra intitolata Il veleno dopo lo sparo, che illustra le modalità in cui il piombo può diffondersi dall'ambito venatorio all'ambiente e all'uomo. Fa discutere la proposta presentata dall'Associazione Agricoltori del Medio Tagliamento e sostenuta da Fratelli d'Italia di mettere a disposizione 400 ettari oggi coltivati da destinare a opere di rinaturalizzazione e a fini di laminazione delle piene del fiume. Siamo andati a Pinzano, nella zona che sarebbe interessata dal progetto, a sentire Erminio Barna, presidente dell'Associazione Agricoltori del Medio Tagliamento. Erminio Barna è presidente dell'Associazione Agricoltori Medio Tagliamento. 400 ettari di terreno lungo l'asta del fiume nei comuni tra Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento, circa siete una quindicina di imprenditori agricoli. Che cosa vi ha spinto a mettervi a disposizione? Sicuramente è cambiato lo scenario con la nuova legislazione sulla restoration natura, contrariamente a quando c'è stato il periodo delle casse di espansione che non era prevista nessun indennizzo, pagamento delle proprietà. Oggi si può discuterne, ci sediamo a tavolino con gli enti interessati facendo la verifica di quello che è l'attualità. Noi responsabilmente da cittadini e anche da amministratore locale, ragionando su tutto quello che è il problema, non si può solo protestare ma bisogna anche costruire. Siamo qua a disposizione per discutere. Pinzano al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Apre i battenti oggi ai cantieri di Aprilia Marittima la 38esima edizione di Nautilia, il grande salone delle imbarcazioni usate che coprirà questo il prossimo weekend. Attese oltre 300 imbarcazioni, dai grandi yacht da oltre 15 metri alle barche di piccola taglia, con un pubblico di acquirenti fatto sempre più anche di famiglie, come ci dice Nicola Toso, co-organizzatore del salone assieme a Stefano Retondini. Siamo arrivati alla 38esima edizione di questa mostra dell'usato nautico. Quest'anno ci aspettiamo anche un numero superiore di visitatori, pensiamo superiore alle 6.000 presenze. I broker e le ditte specializzate nel settore nautico sono più di 40 e quest'anno abbiamo più imbarcazioni, siamo più o meno sono 300 imbarcazioni in esposizione tra i 4 e i 23 metri di lunghezza. Da qualche anno si è aumentata comunque la vendita delle piccole imbarcazioni per cominciare a conoscere il mare e abbiamo notato che specialmente quest'anno che c'è una novità qui a Nautilia, che sono le houseboat, che sono delle imbarcazioni che tendenzialmente si possono anche andare in mare aperto con dei motori un po' più potenti, però quelle che normalmente si usano sono imbarcazioni che possono utilizzare un motore da 40 cavalli, che quindi possono anche essere pilotate da persone che non hanno la patente nautica, e sono utilizzate per la scoperta della laguna e dei fiumi interni. Quindi abbiamo notato che c'è un approccio proprio, un fatto della famiglia che inizia a conoscere l'aspetto marino anche con questa tipologia di imbarcazioni. Nautilia è quindi diventato in questi anni un punto di riferimento di questo settore, e lei parlava adesso delle famiglie, ma al di là delle famiglie qual è poi il pubblico che partecipa? Un po' in tutto il Friuli, nel territorio abbiamo un'affluenza del 70% tra la clientela straniera, austriaca e tedesca e svizzera, e un buon 30-40% di italiani. Specialmente negli ultimi anni l'approccio è un po' più giovanile, e quindi siamo molto contenti del trend che si sta creando adesso. Eccoci arrivati al tempo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste e Udine 17 gradi, a Gorizia 16,5, a Pordenone 16, a Tolmezzo 11, a Forni di Sopra 10, a Tarvisio 9, a Piancavallo 8 gradi, a Sappada 6, sul Monte Zoncolan 4, sul Monte Lussari 3 gradi, a Grado 15,5, a Lignano 15. Le previsioni per oggi pomeriggio: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibile maggiore nuvolosità locale sui monti e verso il Veneto, borino al mattino sulla costa. Domani cielo in genere poco nuvoloso con venti deboli, possibile qualche maggiore annuvolamento locale, temperature massime in leggero calo. Per la musica tutto esaurito al Teatro Verdi di Trieste per il ritorno del maestro Daniel Oren, che ieri sera ha diretto l'orchestra del teatro, e il pianista goriziano Alexander Gaggiev. Nel programma il concerto in fa minore di Chopin e la settima sinfonia di Beethoven. Da un lato lo Chopin giovane ma già perfetto del concerto in fa minore, dall'altro il Beethoven maturo e assoluto della settima sinfonia, affidate ad un pianista che a 31 anni è una consolidata realtà internazionale e un motivo di orgoglio per tutta la comunità regionale come Alexander Gaggiev, e a un direttore che ha fatto la storia soprattutto in campo operistico, ma che è fenomenale anche a dirigere il repertorio sinfonico come Daniel Oren, che oltretutto ha un rapporto speciale con Trieste. C'era tanta curiosità ed era difficile trovare posto prima di questo concerto della stagione sinfonica del Teatro Verdi. Come bis, Gaggiev ha scelto la polacca in la bemolle maggiore, sempre di Chopin, al termine di un'esecuzione del concerto ricca di sfumature, in cui ogni singola nota aveva un suo colore. Oren, per rispondere agli applausi del pubblico, ha invece ripetuto alla fine l'ultimo movimento della sinfonia, quello in cui il suono dell'orchestra beethoveniana esplode in tutta la sua potenza, concludendo in questo modo uno splendido concerto che si è risolto in un trionfo per tutti i protagonisti. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport. Tra le partecipanti alla corsa dei due castelli di domani a Trieste, prova che si corre sulla distanza dei 10.000 metri tra Miramare e Piazza Unità, ci sarà anche la regina dell'atletica italiana Nadia Battocletti. Un mese fa ai mondiali di Tokyo ha conquistato il bronzo sui 5.000 metri e l'argento sui 10.000, stessa medaglia che aveva vinto anche alle Olimpiadi di Parigi. Domani tenterà di battere il suo stesso record italiano su strada sui 10 km, prima di proseguire la stagione invernale dedicandosi alla corsa campestre. L'abbiamo sentita questa mattina in Piazza Unità durante la presentazione della gara. È una prova particolare, quali sono le aspettative per domani? Le aspettative per domani sono sicuramente quelle di continuare a divertirsi. Ho appena iniziato la mia preparazione invernale, quindi la mia stagione, e non c'è modo migliore che farlo qui a Trieste. Come si vive queste due anime, quella in pista e quella fuori di cross? Diciamo che si devono unire e devono collaborare bene insieme, anche perché il lavoro di uno serve all'altro, quindi in realtà ci sono tante sfaccettature, però alla fine è l'unione che conta. Com'è invece il dopo Tokyo? Il dopo Tokyo è stato impegnativo e volevo passare più tempo con la mia famiglia, e così è stato, quindi sono stata molto felice, non ho fatto chissà che vacanze, però alla fine stare in famiglia è importante. Hai avuto modo di provare o vedere il percorso, cosa ne pensi? Sì, ho iniziato un po' a sbirciare ieri e poi nel pomeriggio andrò a farmi una corsettina a vederlo. Sono zone che conoscevo già, che ho già visto e quindi provare a farle in una gara mi renderà sicuramente più che felice. È cambiata un po' la tua vita, il tuo quotidiano negli ultimi tempi? Sì, questo sì, è cambiato, per fortuna è cambiato in meglio e sono molto felice quando le persone magari mi riconoscono, vengono da me, mi chiedono un consiglio o addirittura mi raccontano cosa hanno provato loro nel guardarmi in gara. E quindi sono tutte cose molto molto belle che ti riempiono il cuore di gioia. Poi Trieste è una città molto sportiva, si corre in tantissimi, c'è anche la Family Run domani. Cosa vuol dire anche questo movimento che sta crescendo mano a mano? È una cosa molto molto bella, perché ho sempre detto che lo sport è salute e nel momento in cui ci sono anche queste competizioni, queste gare che aprono a nuove, anche a nuovi livelli di partecipazione, è molto importante, perché alla fine si può correre con il proprio papà, con la propria mamma, col fratello, con la sorella, e quindi sono cose davvero molto belle. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Domani, domenica, su Rai 3 torna la nostra rubrica Diffusione Nazionale Est-Ovest. Sentiamo un'anticipazione. Sono migliaia, il loro numero cresce costantemente, i pensionati italiani che vivono in Albania. Nel nord-ovest della Bosnia una banda di afghani estremamente violenti terrorizza e ricatta i migranti sulla rotta balcanica. Il Parlamento di Strasburgo ha discusso della difesa comune dopo le intrusioni di droni nello spazio aereo europeo. La comunità ebraica in Lituania, decimata durante la Shoah, teme un sentimento antisemita mai estirpato. L'Università di Udine, nel quadro dei programmi Erasmus, ha organizzato una scuola estiva di lingua e cultura ucraina. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. È sempre domani, ma dopo il nostro giornale radio delle 8:30 tornerà anche Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai, domani esplora la filiera della canapa industriale, presto operativo l'impianto che produrrà il prezioso olio cosmetico. A seguire l'odore dell'autunno nei vecchi solai contadini pieni di scorte per l'inverno, meloncella, carosello, barattiere, tortarello, coltivazione e consumo di vecchie o nuove varietà orticole. La birra miracolo di semplicità, solo 4 ingredienti base per un universo di sapori. E ancora la cotognata, prepararla in casa con una ricetta storica e come proteggere le piante da fiore durante l'inverno. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Un faro della civiltà inno alla vita, alla pace e al superamento dei confini e l'obelisco della cultura, opera ideata e progettata dall'artista e designer Celia Stefania Centonze, che è stato installato in un luogo fortemente simbolico per Gorizia come il piazzale della Casa Rossa. L'inaugurazione si svolgerà a partire dalle 18 a 50 anni esatti dal giorno di fondazione del Fondo per l'Ambiente Italiano. E se no, è il titolo dello spettacolo in scena questo pomeriggio a Gemona nell'ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sul palco, con la loro ironia, i Trigeminus porteranno in scena uno spettacolo che invita a riflettere sull'importanza della prevenzione e sull'ascolto di sé, alle 17:45 nella ex chiesa di San Michele. No More Trouble, cosa rimane di una tempesta, film in cui il giovane cineasta friulano Tommaso Romanelli ricostruisce la vita del padre, il velista Andrea, scomparso in mare durante una traversata oceanica nel 1998, sarà proiettato oggi alle 20:30 alla presenza dell'autore nel salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Cividale. Secondo weekend per la 44esima edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno a Valle di Sofumbergo, conosciuto come il Balcone del Friuli. Protagonista della manifestazione la proposta enogastronomica. Alle ore 15 partirà la tradizionale passeggiata nel bosco per la raccolta delle castagne. Nuovo appuntamento con i laboratori turistico-culturali promossi dall'Associazione Multilinguistica Goriziana GERZ. Oggi in programma una visita guidata in lingua friulana, la scoperta della componente friulana di Gorizia, con partenza alle 15 11.30 dalla sede di Via Rastello. Un incontro per fornire un quadro informativo sul vino e i suoi effetti sul metabolismo e sulla salute, ma anche sulle modalità di raccolta, preparazione e degustazione con professionisti del settore. Si svolgerà a partire dalle 14 al Castello Formentini di San Floriano del Collio, organizzato dall'ex primario di cardiologia dell'ospedale di Gorizia, Roberto Marini. Il Wunderkammer Festival di Trieste propone oggi due appuntamenti, alle 17 al Teatro Miela. Il Mago Dudu, spettacolo creato e affrancato e sarà affrancato da Alessandra Sagelli. Infine alle 20.30 la Torre del Lloyd, l'esibizione dell'ensemble francese Le Mandorle, che proporrà musiche francesi del Settecento. Danilo Rea con il suo progetto Sakamoto and Me è il protagonista dell'anteprima del festival Volo del Jazz di Sacile, un appuntamento in cui Rea porterà il suo omaggio alle sperimentazioni del musicista giapponese. Appuntamento alle 21 al Teatro Zancanaro. Ricercare le matrici comuni di due tra le più antiche danze popolari italiane, la pizzica e la furlana, la danza dei furlani, è l'obiettivo del progetto di ricerca Dal Salento ad Aquileia, a cura della Fondazione La Notte della Taranta. Le attività prenderanno il via oggi alle 18.30 ad Aquileia, con un concerto al Terminal UNESCO in via Giulia Augusta dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, che proporrà i brani della tradizione salentina. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Viola Romanese e Giuliano Pecorari. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.